Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi avrà in studio Giovanni Gavazzeni, che noi abbiamo così eletto nostro critico di riferimento ed è un amico non soltanto di Radio 24, ma è particolarmente affezionato a questa trasmissione. E allora lo saluto direttamente, non ha bisogno di presentazioni, ricordo critico musicale del giornale, nipote d'arte, nipote di Gianandrea Gavazzeni, e poi ha tante altre qualità che adesso non elenchiamo perché è qua davanti. Buonasera Giovanni. Buonasera Armando, buonasera a tutti gli ascoltatori. E allora, questa ultima domenica di marzo, cosa possiamo dire? Com'è la temperatura, insomma, la febbre della musica italiana? Cosa sta accadendo? Intanto nel nostro maggior teatro alla Scala stanno per essere varati i troiani di Hector Berlioz. Non è la prima volta che giungono alla Scala, già nel 1960 ci fu la prima italiana, ma ogni volta che quest'opera va in scena è una vera epopea. È un'epopea per l'autore quando la scrisse ed è un'epopea perché dura quasi 5 ore di musica, quindi è un ascolto veramente che richiede molto dal pubblico e soprattutto richiede molto al teatro perché ci vogliono degli interpreti formidabili. È molto impegnata l'orchestra, il coro, il corpo di ballo, insomma è uno spettacolo a tutto tondo. E beh, quindi diciamo così un appuntamento epocale. È un appuntamento epocale e devo dire la verità che nel corso degli ultimi 20 anni si è smentita un po' la leggenda che fossero un'opera noiosa e irrappresentabile. È un'opera meravigliosa e assolutamente rappresentabile. Ovviamente ci vuole l'interprete, il protagonista, Enea, il tenore, e deve essere un interprete ragguardevole. La Scala ha a disposizione Gregory Kunde, che è in un momento di forma straordinaria, come ha anche potuto constatare chi ha sentito l'Africain di Meyerbeer, che è un'opera per grande tenore, e ha dato una prova di sé notevolissima. Ecco, chi la dirigerà? È il maestro Antonio Pappano, che debutta dopo tanto, diciamo, è stato molto atteso questo debutto, e finalmente questa coproduzione fra Londra e Milano fa sì che finalmente lo si possa ascoltare. Gli ascoltatori così più interessati possono trovare anche già un DVD di questo spettacolo veramente bello di Opus Arte dell'allestimento di Londra. Bene, ma possiamo far ascoltare qualcosa? Beh, io direi che cominciamo ad ascoltare una delle perle dell'opera, che è il settimino del quarto atto, quando i troiani sono giunti a Cartagine e invece che ricordare così i dolori passati cercano di immergersi in questa atmosfera sensualissima che è la corte di Didone. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo con noi in studio Giovanni Gavazzeni, critico musicale, nipote d'arte, poi io amo sempre aggiungerlo, ma soprattutto un competente formidabile di lirica, di musica, e soprattutto poi possiamo dire sul soprattutto, due soprattutto, è anche un critico che ama la musica, qualità che non sempre i critici riescono ad avere, perché poi si arriva molte volte ad odiarla, Giovanni. Ma sì, la musica veramente, come dire, rinnova sempre. Certo. Quando ci sono quando vedi questo mondo, anche quello musicale, pieno insomma di nequizie, di bassezze, eccetera, eccetera, poi la musica rimette le cose al suo posto. Bisogna sentire più la musica che non i critici, oppure sì, i sovrintendenti, oppure i direttori, oppure i cantanti. Allora in quel momento si riesce in qualche modo a riprendere l'amore per grande arte. Per esempio è quello che insegna la biografia di Berlioz, che ha avuto una serie di grandissime amarezze e che in patria era più temuto come critico musicale, ed è uno dei più straordinari critici musicali dell'Ottocento, e scrive con un dono della scrittura meraviglioso. Eppure come compositore non era preso nell'adeguata considerazione, ha scritto Les Troyens, opera di cui stiamo parlando oggi, senza sapere, senza che nessuno gli promettesse un'esecuzione, e ha potuto vederne solo una parziale dei primi due atti, La Prise de Troyes, ed è morto senza averla mai sentita tutta, e quindi già questo la dice lunghissima su questa personalità. Eppure aveva fin dall'infanzia un tale amore per l'Eneide e per Virgilio che ne sapeva ampi passi a memoria, anzi libri interi, e quindi questo lo ha spinto verso la fine della sua vita a dedicarsi a questa enorme opera, che poi è un'opera bifronte, che il pubblico è sempre un po', come dire, è in difficoltà per la personalità bifronte di Berlioz, perché lui da un lato adorava le forme drammatiche e melodrammatiche di Gluck e del suo adorato Spontini, quindi dell'opera seria settecentesca, e dall'altro le esprimeva con un'orchestra che a tratti è di una modernità impressionante, è uno dei più grandi orchestratori e inventori, e quindi questo contrasto, come dire, ha fatto sì che quando è venuta alla luce l'opera fosse considerata attardata e precorritrice nello stesso tempo, e quindi non si trovava mai bene in nessuna epoca. È per quello che Berlioz è in grande scontento del suo tempo, perché non era in tutti i tempi e non era nel suo, e poi si vedeva sempre, come dire, passato avanti, ha avuto una pensione in tarda età solo perché era morto l'autore di Giselle. E quanti compositori di secondo e terzo livello gli sono passati davanti, quindi un'amarezza enorme, ed è il motivo per cui lui non ha difeso Wagner nella famosa querelle del Tannhäuser a Parigi, perché diceva: ma come, questo poi arriva per ultimo, io sono da anni che aspetto la rappresentazione dei miei Troyen, e qui si dà il Tannhäuser, e tutto sommato la caduta di Wagner gli aveva fatto piacere, pover uomo, insomma. Certo, molte volte non si pensa poi alle conseguenze, magari di un momento, di una premura, di altro. E poi, voglio dire, la penna di Berlioz si poteva esercitare in difesa di Wagner, perché poi erano comunque fratelli, erano tutti e due patrocinati da Liszt, che li adorava come i due più grandi compositori del suo tempo. Bastava pochissimo perché si avvicinassero, però vedete che nella carriera dei grandi autori ci sono poi fatti contingenti della vita quotidiana che separano artisti che invece sarebbero vicinissimi, insomma. Certo, e possiamo ascoltare ancora qualcosa dei Troiani di Berlioz, perché lo stiamo facendo, è in programmazione alla Scala sotto la bacchetta di Pappano, nei prossimi giorni, i primi d'aprile, ed è un po', diciamo così, lo stesso Pappano ci ha detto in un'intervista che i Troiani sono proprio l'opera del contrasto. Dice, per esempio, faceva l'esempio, e noi lo ascolteremo, nel primo atto c'è questa meravigliosa pantomima orchestrale, intensissima, densissima, che mostra la vedova di Ettore che porta il piccolo Astianate a salutare il vecchissimo e cieco re Priamo. È un momento di commozione estrema, cui segue la brutale, violentissima entrata di Enea, che racconta concitatamente cosa succede a Laoconte, e il pubblico si renderà conto di Berlioz come capace di far sentire perfino le idre dei serpenti che si attaccano al disgraziato sacerdote che voleva avvertire, insomma, dell'inganno dei greci, ecco. E questo Berlioz lo sa rappresentare. Ovviamente stiamo dando solo dei piccoli estratti, perché l'opera è piena di questi momenti meravigliosi e bisogna arrivarci fino alla fine, perché per gli interpreti è una fatica veramente improba. Lo stesso Pappano ci ha detto che in tutta la sua carriera la fatica che gli richiede, fisica anche, di concentrazione, la direzione ai primi due atti dei Troiani non l'aveva ancora incontrata. Paragonabile forse a quella del Parsifal per molti aspetti. Insomma, ma in questo caso i cambi di tempo, l'equilibrio fra l'orchestra e il palcoscenico, la straordinaria presenza del coro che deve fare tutto, dalla populace troiana alle vergini che stanno per suicidarsi prima di cadere nelle mani dei greci, al corteo funebre che precede la morte di Didone, cioè agli inni trionfali dei cartaginesi. Il coro forse è il protagonista assoluto di quest'opera, però noi facciamo sentire l'ingresso di Enea e omaggiamo nel contempo un grande direttore inglese, Sir Colin Davis, che ha amato tantissimo Berlioz, lo ha registrato e gli ha dedicato anche un'incisione dal vivo con la London Symphony dei Troyen poco prima di morire. Il protagonista è un tenore, un Helden tenor, Ben Heppner, che è uno dei pochi che riesce a fare molto bene oggi questo ruolo. Dopo i Troiani di Berlioz c'è un libro che lui ha portato in studio, perché in fondo è stato pubblicato proprio in questi giorni e ne vale la pena proprio dare notizia. Si tratta? Adelphi, che è sempre molto raffinata nelle sue proposte quando riguardano la musica, tiene nella giusta considerazione uno dei maggiori pianisti dei nostri tempi, Alfred Brendel, che ha anche doti di scrittore molto molto notevoli, ha pubblicato testé un abbecedario di un pianista. E fra le varie voci, tutte gustosissime, che riguardano soprattutto elementi dell'interpretazione, eccetera, eccetera, istruzioni ai pianisti su come fare una cosa o non farla, sempre con molta ironia, dedica ovviamente dei piccoli capitoli di questo abecedario ai suoi compositori preferiti, tra i quali ovviamente non può che mancare Mozart. Ovviamente li definisce tutti maestro o gran maestro, dice, senza alcun riferimento alla massoneria. Mozart lo definisce grande maestro, quindi assoluto, dell'opera, del concerto per pianoforte, del quintetto per archi e soprattutto dell'aria da concerto, cosa che mi ha fatto un enorme piacere, perché io trovo che le arie da concerto di Mozart siano veramente una, come si può dire, un'antologia di perle meravigliose. E poi dà anche delle indicazioni piuttosto pepatine. Per esempio, Mozart non è né di porcellana, né di marmo, né di zucchero. Il Mozart grazioso, il Mozart profumato, il Mozart estasiato, il Mozart nolime tangere, il Mozart gonfio di sentimento e quello incessantemente poetico vanno evitati con cura. Una chiave di lettura importante per l'esecuzione di Mozart è il canto operistico, quindi è un pianista che ha sempre come riferimento la voce umana. Il Mozart adulto dice ciò che ha da dire in modo puro, privo di scorie, come è raro trovare in compositori di altissimo livello. Sono piuttosto i maestri minori a levigare classicisticamente quanto i loro straordinari predecessori hanno lasciato di ruvido, oscuro, ardito e sconcertante. Distillando, diluiscono. Nei begli aforismi su Mozart di Ferruccio Busoni si trova la frase: insieme all'enigma dà la soluzione. Beh, insomma, questo già ci dà l'idea di che livello di mente sia quella di Brendel. E quindi noi lo abbiamo seguito prendendo al balzo la palla che ci offre un disco sempre diretto da quel Ser Antonio Pappano di cui abbiamo parlato per i troiani. E Sir, come Colin Davis, certo. Quindi diamogli tutti i titoli questa sera. Diciamo che in Inghilterra hanno una certa, come dire, un certo rispetto per la musica e chi se lo merita prende questo titolo. Ci fu solo Benjamin Britten che fu nominato pochi mesi prima della morte Lord dalla regina, l'attuale regina Elisabetta. Onore mai concesso a nessun altro musicista. Titolo però non trasmissibile. E quindi... ecco, comunque insomma Sir Antonio Pappano fra l'altro si presenta in questo disco non solo nella chiave di accompagnatore del tenore messicano Rolando Villazón, che adesso in questa sua fase di carriera un po' difficoltosa si è però innamorato, merito suo, delle opere di Mozart e quindi ha una grande passione mozartiana, ma per quanto riguarda un'aria comica Pappano canta anche, lo sentirete, la parte del padre di questo sposo che vuole un po' magnificare tutte le sue qualità, perché vuole convincere appunto lo suocero che lui è l'uomo giusto. E fa parte di un gruppo di arie che tipiche di quel periodo che certi cantanti magari chiedevano a Mozart perché erano insoddisfatti di quello che il compositore aveva scritto e quindi questo genio scriveva delle arie aggiuntive per questa o quell'opera. Cosa possiamo dire di questo libro di Brendel? Possiamo chiederlo a Giovanni Gavazzini. Non è che l'editoria italiana stia molto attenta alla musica o abbia, diciamo così, pubblicato? No, diciamo che ormai siamo proprio nel fanalino di coda per questo genere di settore. Però, come dire, ci confortiamo ogni tanto quando una casa editrice come Adelphi, che è tutto quello che pubblica viene letto, perché i lettori adelfiani sono molto fedeli, e quindi Brendel è entrato nel canone dell'Olimpo degli adelfiani e va letto, perché è un pianista che sa scrivere e soprattutto in maniera molto semplice e molto diretta per il lettore. Questo è un abecedario che dà delle indicazioni su cosa sono i pedali nel pianoforte, che cosa è il virtuosismo, insomma, con molta semplicità ma con molta precisione terminologica. Il libro tra l'altro non costa nemmeno molto. Costa pochissimo, 12 euro e si legge rapidamente perché è molto molto interessante. Fra l'altro per il nostro ultimo ascolto, diciamo, useremo come viatico quello che ci dice Brendel su un altro dei suoi autori amati, che è Chopin, e lo faremo ascoltare da un pianista che ci ha, come dire, completamente che mi ha completamente rimbambito, che si chiama Daniil Trifonov e che ho sentito alla Scala sei mesi fa e dal quale momento sono completamente ai suoi piedi e spero che incida quanto più è possibile. Ha fatto un recital ovviamente alla Carnegie Hall, dove è stato consacrato, e soprattutto ha inciso la sonata in si minore di Liszt e i preludi di Chopin, quindi due, come dire, vertici assoluti del pianoforte. Certo. E in una maniera secondo me eccezionale. Volevo leggere qualche piccola cosa brendeliana su Chopin a mo' di introduzione, le sue considerazioni, insomma. Certo. Nella sua assoluta dedizione al pianoforte, Chopin è sovrano nel campo di studi mazurche e polacche e creatore di ballate, scherzi e improvvisi, ma soprattutto dei 24 preludi, vetta dell'intero repertorio pianistico. E poi aggiungo una cosa interessante: è quasi inconcepibile che sia stato Ferruccio Busoni, a quanto pare, il primo virtuoso di rilievo a suonare i preludi come ciclo. Eppure Busoni non rientrava fra gli specialisti di Chopin. Poi dice: Chopin scrisse unicamente musica per pianoforte, amava il canto ma non ha lasciato nessuna composizione memorabile, qualche una l'ha lasciata, per voce e pianoforte. In lui non c'era quel legame con il ritmo dell'ensemble, con i colori orchestrali, i timbri di altri strumenti, che era invece naturale per altri grandi autori di musica pianistica. Chopin creava principalmente muovendo dal proprio strumento. E non stupisce che il suo modo tutto personale di suonare il pianoforte obbedisse alle esigenze della sua musica in uno stile esecutivo non trasferibile ad altri compositori. E poi ci fa una domanda alla quale noi rispondiamo adesso. Dov'è l'interprete che sappia cogliere il nucleo poetico di questa musica fra i poli estremi del conservatorio e del caffè? Oltretutto Chopin, a differenza di Schumann e Liszt, non ha quasi mai parlato di poesia. La poesia, questi grandi pianisti russi la trovano nella cultura del loro paese. Dopo Berlioz, ecco che c'è questo libro di Brendel che è un po' la novità del momento, e abbiamo ascoltato anche Pappano cantare, ma poi abbiamo anche citato Chopin. Sì, ma diciamo, per annunciare questo pianista di cui abbiamo parlato prima, Daniil Trifonov, che in questo momento si esibisce all'Accademia di Santa Cecilia, si è esibito, tornerà anche alla Scala, mi pare, con Valery Gergiev, che è un suo grande stimatore, ha bruciato tutte le tappe, ha vinto il concorso Chopin, ha vinto il concorso Rubinstein a Tel Aviv, ha solo 21 anni, ma è già, ha lasciato completamente di stucco una competente in materia come Marta Argerich, che dice che lei non ha mai sentito nella sua vita una completezza musicale di questo tipo. C'è solo quasi da tremare, perché se ha 21 anni è così, non può solo che bisogna augurare che rimanga così, perché non si sa che cosa può diventare. Ecco, so che studia a Cleveland con un insegnante ancora, quindi ha voglia di approfondire, e noi, diciamo, come dire, non ci lasceremo sfuggire mai nessuna sua sortita italiana. Qui volevo citare ancora una pagina di questo delizioso abbecedario di un pianista di Brendel, pubblicato da Adelphi. Costa 12 euro, eccolo, dobbiamo precisare, nella piccola biblioteca Adelphi. Alcuni interpreti, scrive Brendel, ritengono che la musica viva solo quando la si suona. No, vive già ampiamente nella pagina scritta, ma dorme. L'interprete deve risvegliarla, oppure, detto in modo più affettuoso, destarla con un bacio. Questo succede sempre quando ascoltiamo un grande esecutore. Devo dire che Brendel attesta la sua stima a due grandi pianisti del passato tedeschi, insomma di cultura tedesca, che non sono più di gran moda oggi. Uno è il pianista svizzero Edwin Fischer e l'altro il pianista tedesco Wilhelm Kempff. E in effetti, riascoltati oggi, questi due grandi pianisti lasciano veramente senza fiato per la fantasia interpretativa e per il controllo che hanno anche dei loro mezzi tecnici. Quindi, diciamo, questo incontro fra poesia personale e capacità tecnica di controllo e equilibrio, punto di equilibrio, devo dire che Brendel è capace di tirarla fuori. Lui, certo, poi come interprete era un pochino differente da loro. Hai ricordato Fischer, e quando si abbinava Furtwängler diventava una bomba atomica, insomma. Sì. E devo dire anche Fischer, quando dirigeva, insomma, questi pionieristici concerti brandeburghesi di Bach eccetera eccetera, beh, anche oggi, dopo tutta tanta filologia o pretesa filologia, beh, risaltano ancora meravigliosamente per la loro intelligenza e per la loro passione. Con Gavazzeni il tempo vola, e anche questa sera abbiamo terminato la trasmissione. Non ci resta che augurare qualche in bocca al lupo per, ovviamente, auguriamo ai nostri ascoltatori di diventare berlioziani e di seguire questo grande giovane talento russo. Bene, a risentirci domenica prossima alle 21. Come sempre vi do appuntamento per la puntata 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Giovanni Gavazzeni.